Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, qualche problema con il tasto dell'accensione per Palla Spicchi di oggi. Gigi Borghi in redazione, Giacomo Spunti in regia, ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Coach ci sei? Dan ciao Peterson. Ragazzi, ciao ragazzi, i media sportivi ci sono sempre, ok? È naturale che ci sei sempre. E oggi c'è anche qui con noi una penna di riferimento della pallacanestro italiana, della Gazzetta dello Sport, Luca Chiabotti. Ciao Luca, grazie. Ciao a tutti. Coach. Luca è il mio boss lì alla Gazzetta, devo stare attento, okay? Sì, devi stare attento a quello che dici. Ecco. Facciamo dei pronostici, coach, almeno è contento. Coach, ma li ha fatti anche Obama, ma dai. Esatto. Pensa se Obama ci becca e North Carolina vince il titolo NCAA. Se Obama becca e io no, guarda, io mi dimetto, ok? Quindi è il più grande divertimento di Chiabotti è chiedermi i pronostici. Lo so, la Gazzetta un po' tutti, anche l'altro giorno Franco Arturi te lo diceva. No, Obama in diretta che fa i pronostici per NCAA è bella, Luca. Non è male, eh? È bella perché dimostra che ci si può anche sbilanciare in cose cruciali per l'umanità come il bracket della NCAA. Pensate in Italia se un politico si mettesse a dire che vince questo piuttosto dell'altro. Ci sarebbero delle interrogazioni parlamentari, credo. Sicuro. Intanto Obama comunque è il presidente americano più sportivo, autenticamente sportivo di tutti i tempi. Lui gioca ancora, lui va in palestra ancora e fa uno contro uno contro uno sui guardi di corpo con la speculazione. Chi è permesso di vincere questa partita contro il presidente? C'è due malalingue e dice, ma figurati se le fanno vincere 11 a 10, hai capito? Cioè, sì, poi immaginati se lo stendono. Coach, parliamo di basket. L'Italia di Coppa va certamente meglio di quella del calcio, l'Italia del basket. La Virtus alle Final Four di Euro Challenge. C'è Taranto, anche le ragazze di Taranto hanno vinto con la Dinamo Mosca, risultatone pazzesco, e sono in finale di Eurocup. Ma andiamo, questo lo sapevamo già prima di ieri, Treviso alle finali di Eurocup, Siena che sta per cominciare la maratona greca con il Panathinaikos, tutto sommato una stagione europea, se facciamo un primo bilancio, e aspettando Siena che è la polpa di tutto questo, non male. Ma io penso che l'anno scorso sostanzialmente c'era solamente Siena, quest'anno c'è Siena che va avanti, non so se riusciranno a fare il Final Four, anche se io pronosticato di sì sulla Gazzetta in un lapsus, cioè, ma io penso che abbiano le loro possibilità, ma quello che tu hai disegnato, il quadro globale di tutto è importante per una mini rinascita del basket italiano, vediamo i risultati che ottengono. Poi io ho detto anche, quando ho scritto per Luca lì la Gazzetta, anche Milano e Roma che sono andati al top 16, ok, sono fuori, ma non voglio buttare via il bambino con l'acqua sporca, ok? Cioè è stata una mini impresa, mini, arrivare anche a quel punto lì. Non voglio dire campione del mondo, ma niente male. 800-24-0024, numero verde per intervenire. Boss, sei d'accordo con Coach Peterson? Sì, assolutamente, anche se eravamo abituati ad altri tipi di numeri, però di sicuro qualcosa sta succedendo. Cioè abbiamo delle squadre che non sono probabilmente al vertice del livello delle grandi squadre europee del momento, però chi c'è appena dietro è meglio di chi è appena dietro negli altri paesi, per cui Treviso, che comunque in campionato qualche problema ce l'ha, è andato alle Final Eight, Bologna per quello che vale quella Coppa comunque ha dovuto anche vincere delle partite difficili, è riuscito ad arrivare ai Final Four, quindi probabilmente non abbiamo i picchi, ma la media del nostro basket sta migliorando, sta crescendo dopo anni un pochino difficile. Luca, perdonatemi se faccio l'avvocato del diavolo, Luca, però non riesco a considerare a vedere il bicchiere mezzo pieno con Milano e con Roma quando vedo il Partizan Belgrado, che comunque è passato, che comunque muove 22.000 persone, che comunque è un evento. Guarda, non riesco a vedere il bicchiere mezzo pieno. No, ma infatti non si tratta di vedere il bicchiere mezzo pieno, hai toccato secondo me il tasto più dolente, che è il Partizan di Belgrado, perché come dici tu, lasciando perdere le 22.000 persone che sono il record europeo di pubblico in una partita di Coppa. Il problema è che il Partizan di Belgrado, dopo aver dato Pekovic, che è il miglior pivot giovane al Panathinaikos, è andato a fare questi playoff di Eurolega con 8 giocatori serbi, tutti giovanissimi, senza americani, perché i loro stranieri, hanno degli stranieri ma non sono in questo caso americani, Quindi vuol dire che è chiaro, quella è una grande scuola, una grande tradizione, la pallacanestro europea lì ha sempre trovato campioni, tutto quello che volete, però si può. Quello che in Italia si continua a dire che non si può fare, cioè far giocare i nostri giocatori, avere dei buoni risultati con i nostri giocatori e che è indispensabile avere sempre più stranieri, non è vero. Non è vero, perché il Partizan sta facendo esattamente il contrario, e devo dire che chi va a Partizan, chi va a Belgrado ovviamente, più che a Partizan, farà fatica perché questa è una squadra giovane che gioca bene e poi ha questa immedesimazione col pubblico veramente straordinaria. Coach, io faccio il tifo per il Partizan, te lo confesso. E Luca ha toccato veramente l'argomento che poi lanciano loro i giochi, poi voglio anche citare il coach Vujovic che ha una lunga storia, Divac, Djordjevic, Danilovic, Brasovic, tutto quello che Paspai, tutto quello che lui ha lanciato nel passato, parla di 20 anni fa, okay, quando ha vinto la Cores con Partizan contro Cantù, fra l'altro, quindi un grande esempio per tutti, assolutamente, e quello che dice Luca è vero, cioè loro hanno smentito la politica. Voglio aggiungere un'altra cosa, Luca, non so se tu sei d'accordo, io penso che le squadre italiane in A1, cioè diciamo la Serie A, in A2, cioè la Lega 2, l'anno prossimo meno americani, più comunitari, Lettonia, Lituania, quella, eccetera, magari comunitari, eccetera, perché sono persone che hanno più fondamentale, più tiro, capiscono il gioco, capiscono l'Europa e cosa vuol dire un campionato, una coppa, e non sono spaesati dall'esperienza. Ma credo anch'io che ci possa essere questo miglioramento. Del resto, negli ultimi giorni, ad esempio, Montegranaro ha preso un giocatore greco, Vasileiadis, che è, secondo me, un ottimo giocatore, però aveva sempre più o meno fallito a un certo alto livello. E sta portando un contributo superiore a quello che magari anche un giocatore migliore, ma senza questa mentalità di cui parlava Coach Peterson, può portare, soprattutto a metà stagione. Non parliamo dei Sclavos, che di Rieti, che è anche abbastanza sconosciuto, fra virgolette, ma che ha dato un grande contributo, perché è un modo di giocare a pallacanestro che si assimila di più a quello che noi vogliamo insegnare, che i nostri allenatori insegnano. Però il problema è anche quello: se tu hai 7 americani e vuoi farli giocare come vuoi tu, cioè italiano, può darsi che tu abbia dei problemi, e quindi questo è un aspetto importante. Credo che sarà più facile far giocare le squadre l'anno prossimo rispetto a quest'anno, anche se poi tutti i dirigenti delle società non sono d'accordo. Tornando a Siena, visto che così diamo una mano a Coach Peterson per il suo pronostico, l'infortunio grazie ragazzi l'infortunio di Diamantidis una minima mano la dà, credo, a Pianigiani, insomma, da questo punto di vista. Ma la cosa che aiuta Pianigiani, secondo me, è il fatto che devono giocare meglio di 5 adesso, una serie lunga per una quarti finale sostanzialmente, c'è la possibilità di 5, poi semifinale una partita, finale una partita non mi quadra esattamente, però questo è il beneficio per Pianigiani, perché vuol dire che in teoria che quelli di Panathinaikos devono difendere il loro campo 3 volte, e può capitare, magari lo fanno, ma posso anche forse vincere Siena, ma non è del detto di tutto, non è così semplice. Certamente poi l'assenza di Diamantidis, più che un piccolo vantaggio per Pianigiani, secondo me è una grande tegola sulla testa di Obradovic, perché se c'è un giocatore totale che ha marcato McIntyre, ad esempio, ed è andato a mancare Stonrook nella stessa partita, quindi se c'è un giocatore totale che incarna veramente il grande giocatore per eccellenza, anche se poi magari alla fine della partita ha fatto 6, 7, 8 punti, e Diamanti, secondo me è un grosso problema. Che questo poi sposti il pronostico magari è più difficile, però è un grandissimo problema e un grande vantaggio per sé. Sarà che sarà lunga quella serie, sarà lunghissima. Io penso che sarà 5 partite, e guarda, come sa Luca benissimo, la quinta, la bella, quando tu giochi in casa, certamente è il pubblico, i canestri, tutto familiare, ma c'è anche il respiro del tuo pubblico che trasmette ansia, sì. Cioè proprio anzi di dire dicono è tutto diverso, ok? Quindi sarà uno stress. Spero che vada a 5 partite, questa è la mia idea. Coach, prima di salutarti, io voglio strapparti un commento su LeBron James. Questa notte, nella vittoria dei suoi Cleveland su Portland, ai supplementari, 24esima tripla doppia in carriera, 26 più 11 più 10. È il giocatore più dominante dal giorno in cui Michael Jordan si è slacciato per l'ultima volta le scarpe. Oh, guarda, ci sono tre adesso e la mia sfortuna che quando faccio il commento lì per Sport Italia vedo Dwayne Wade, Wade il numero uno, poi vedo LeBron, lo so. E siamo tutti vittime dell'entusiasmo, ma anche fra, non so, Deron Williams e Chris Paul, se vedo Williams è superiore, poi vedo Chris Paul il giorno Chris Paul e poi vedi Kobe, e lo so, però questa è una cosa diversa. Sembra una cosa diversa. Forse, però, e qua in America molti adesso no, adesso sostengono Dwayne Wade. Addirittura, se Luca ha letto questa mattina Peter Vexi, che ha detto Wade è forse fra questi tre che dà più ai compagni di Kobe e di LeBron. Dico, Kobe poco aiuta i compagni, LeBron di più, Wade ancora di più. Quindi, chi lo dice? Però hai ragione tu, come entità giocatore immarcabile, questi tre qui sono i nuovi Michael Jordan, non sono un Michael Jordan, sono tre. Non so se uno di loro è superiore a lui, ma la distanza è così poco che mi è difficile dire. Che ne pensi, Luca? Che è esattamente così. Noi ci dimentichiamo spesso di Wade in tutte le nostre cose nazional popolari, meglio Kobe, meglio LeBron. Kobe in certi momenti di certe partite è assolutamente incredibile, yeah. Quindi rimani sempre con la bocca aperta e vuoi vedere LeBron vincere un titolo, vuoi vedere LeBron in un certo tipo di situazione, anche se poi ha portato una squadra non eccezionale fino quasi ad arrivarci. Però devo dire che Wade della finale del 2006 è quello che si sta riproponendo adesso dopo gli infortuni che ha avuto, mi piacerebbe vederlo in un'altra squadra, però questo sì. Coach, grazie, alla amici prossima. Amici sportivi, e Luca, grazie per non aver chiesto il prossimo. Ma è presto, coach. Ma sai, la settimana prossima ricomincia l'Eurolega. Ragazzi, e poi arriviamo a bomba con i playoff. Che a volte è sadico con me, questa è la storia. Okay, quindi. Luca, un abbraccio, ok? Ciao, saluti. Salve, a coach. Tutti. Ciao, coach, grazie. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre con noi Luca Chiabotti. Oggi ci sono anche ascoltatori che stanno per intervenire e il primo chiama da Rimini ed è Roberto. Buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono un simpatizzante per Siena e ho visto nelle ultime partite, mi è sembrato un attimino sottotono a livello fisico. Questo potrà incidere nel percorso, insomma, che porta alla finale dell'Eurolega? Cosa ne pensi, Luca? Siena, difficile, si era il cappello, l'uomo di Siena. Siena, traumatizzata dal fatto di aver dominato il campionato meno la Coppa Italia nelle ultime stagioni, ha svolto una preparazione per vincere questa dannata Coppa Italia che le mancava. E certamente ha calcato un po' troppo la mano, nel senso che ha ottenuto quello che voleva, sapendo che però avrebbe avuto un momento di calo. Loro l'hanno fatto sperando che questo mese che poi passava tra i playoff e la finale di Coppa Italia potesse ridargli freschezza e ridargli... per cui secondo me è giusto quello che ha detto l'ascoltatore, assolutamente, l'impressione è quella lì. Speriamo che i calcoli, i fatti siano giusti e che, come siano riusciti a vincere la Coppa Italia caricando un po' i carichi di lavoro in un periodo dell'anno in cui di solito è meglio non farlo, così i loro calcoli siano ancora positivi e quindi riescano a recuperare un po' di freschezza per queste partite. Secondo me, visto come lavorano, non ho dubbi che ci riescano, spero che stiano bene più che altro. Ma tu pensi, se ti ricordi le parole che Pianigiani ci ha detto proprio al di là, appena al sorteggio dell'Eurolega con il Panathinaikos, insomma all'incrocio col Panathinaikos, Pianigiani aveva detto che avrebbero avuto bisogno di un momento per recuperare proprio per il motivo che diceva Luca, quindi comunque è inquadrata in maniera perfetta questa situazione, loro d'altra parte si possono permettere magari anche di tirare un po' indietro in campionato da un certo punto di vista. Beh, questo senz'altro. Piuttosto sono curioso di capire se quelle partite tiratissime di Coppa Italia, una Coppa Italia dentro la quale si era messo tutto, sono curioso di capire se quelle partite tiratissime sono una promessa per i playoff o se Siena invece, andrà sul velluto anche quest'anno. Ma essendo che il pronostico è, non è un oroscopo, non è una, quindi devi farlo su quello che su basi concrete, che sono i 12 punti di vantaggio in campionato. L'impressione è che Siena su una serie non sia battibile in Italia in questo momento, a meno che non abbia dei problemi. Allora se si fa male qualcuno, o allora sono altro tipo di discorsi. Mentre sulla partita secca, certamente è una squadra come tutte le altre, che ha molta, ad esempio, legata molto al tiro da tre e a determinate situazioni, per cui se quella sera lì non ce la fa, tira male o qualcosa non va, allora è battibile come tutte le squadre, evidentemente l'Eurolega peraltro l'ha dimostrato, visto che Siena ha preso anche dei bei due partite clamorose perse, per cui clamorose per entità del risultato, non per il fatto di aver perso col Barcellona o col Panathinaikos. Per cui però nei playoff, francamente, io non mi fido di quello che si è visto in Coppa Italia, e tutti ce lo auguriamo, facciamo il tifo, lo enfatizziamo, appena una squadra sembra che possa essere competitiva ne traiamo auspici per il futuro, sono più speranze, credo, che certezza. Cagliari, provincia di Cagliari. Stefano, buongiorno. Buongiorno, faccio i complimenti alla trasmissione. Grazie. Che è veramente, veramente bellissima. E io volevo fare una domanda: se il Partizan si può permettere di arrivare con 7, se non ho capito male, ragazzi serbi a giocare in Eurolega, perché in Italia noi non riusciamo ad andare in campionato con degli italiani in campo? Nel senso, ci sono troppi stranieri, è questo che non riesco a capire. Qual è il problema? È un problema economico? È un problema proprio di o un problema tecnico? E in questo modo non è risente anche la nazionale? Sì. Poi certamente, dicendo, dica. Concludo dicendo che sono un tifosissimo di Roma, però è giusto e doveroso fare un complimento a Siena, e spero vivamente che vada avanti in Eurolega, perché comunque è un orgoglio per il basket italiano. Questo sicuro, più che un problema tecnico o economico, è un problema molto grosso e complesso quello che lei ha sollevato. Il problema degli italiani, il raffronto con il Partizan è abbastanza impietoso. Certamente è un problema che tocca da vicino anche la nazionale, di cui tra l'altro Luca Chiabotti scrive oggi, è meglio sapere che nazionale sarà quella di quest'estate, più che capire. Gli americani non ci saranno, Berinelli, Gallinari, con i suoi problemi. Sì, noi siamo andati avanti negli anni scorsi con la speranza di averli, di aver tutta la miglior nazionale possibile, a costo di creare delle situazioni spiacevoli per noi, per i ragazzi che della nazionale, per quelli che c'erano e per quelli che non c'erano. Quindi a questo punto tiriamo una bella riga. Il 15, purtroppo, allora Gallo ha già finito la stagione, non potrà venire perché è infortunato. Bellinelli si vede che non ce l'ha proprio. Sì, e soprattutto si legge anche dall'intervista che avete pubblicato voi che userà l'estate probabilmente, esatto, per trovare un'altra squadra. Esattamente, per cui non ci pensa. Bargnani per il momento ha dato la sua disponibilità, poi bisogna vedere. Abbiamo la sfortuna / fortuna che quest'anno i nostri giocatori al 15 d'aprile hanno finito, i giocatori americani, voglio dire, perché non nessuno farà i playoff. Sì. E quindi che dicano, poi dopo tiriamo la riga, vediamo chi c'è, chi non c'è, e così almeno tutti possiamo essere più sereni nel valutare la squadra, dare fiducia a chi ci sarà, ringraziarlo, perché l'anno scorso abbiamo preso tutti a sberloni questi ragazzi che ci hanno passato l'estate con un risultato negativo, cioè la mancata qualificazione all'europeo, senza dimenticarci che sono andati a metterci la faccia in condizioni comunque difficili, con poca sensibilità e poco sostegno da parte di tutti. Quindi quindi meglio saperlo prima. Sì, se dobbiamo essere una squadra operaia di ragazzi che va a tentare il grande colpo contro la Francia, che invece chissà come mai Tony Parker, appunto, Dio questo ce l'avrà, meglio saperlo prima. No, poi oggi scrivi, la cosa importante per, ora non è chiedersi perché i giocatori NBA degli altri paesi vanno in nazionale e i nostri non ne sono così attratti. Questo è comunque importante. Capire perché Tony Parker va con la Francia, Nowitzki va con la Germania, perché Garbajosa si gioca la carriera per la nazionale spagnola. Insomma, mi piacerebbe saperlo, guarda, e capirlo. Bargnani va, ma con quella faccia un po' così, silenzio assenso. Andrea quella faccia ce l'ha e quindi è un po' il suo modo di vivere. Noi l'abbiamo anche capito male in certe situazioni, in certe altre ha fatto un po' quello che voleva. Sì. Guarda, ci sono, se ne potrebbe parlare per ora. Molto brevemente, io ogni tanto, siccome questa è una cosa che mi... chiaramente mi fa male, no? Uh-huh. Perché io amo tantissimo, vabbè, io quando vedo la Spagna mi scendono i lacrimoni e io credo che due cose. La prima cosa è che i giocatori che vanno in nazionale, delle NBA che vanno in nazionale, se ci fate caso, sono quasi tutti quelli che hanno avuto successo. Perché è difficile trovare un giocatore che ha avuto veramente successo nella NBA che ha detto no. Questo paradossalmente può essere un aiuto, perché se uno è sempre lì, oddio gioco, oddio non gioco, oddio voglio la squadra però non lo so, oddio ho giocato bene però mi dicono che devo lavorare quest'estate se no non mi danno il contratto, effettivamente può esserci un problema di questo tipo. Sì. Legato anche al fatto che appunto quelli forti che ci vanno poi sono forti hanno un'altra testa, ha detto proprio. Sì, fino adesso noi i Gasol, questa gente qui non l'abbiamo, non sono di quel livello i nostri giocatori. E poi un'altra cosa, sempre legandoci alla Serbia, ci pensavo proprio prima, noi siamo la Serbia di qualche anno fa, quando c'è stato un forte nucleo, i Bodiroga, questa gente che comunque era a fine carriera e aveva vinto tutto e andare in nazionale, si è visto arrivare questi ragazzini che gli americani hanno portato via da giovani, che non avevano ancora dimostrato niente, che sono tornati indietro e hanno detto, beh, no, prima di tutto noi giochiamo nell'NBA, quindi siamo dei fenomeni. Non c'è mai stato un match, non c'è mai stato un feeling tra queste due componenti. La Serbia è sprofondata a livello dell'Italia. Sì. E adesso però al Partizan, al Zelenica, a queste squadre qua che stanno producendo giocatori, cosa che noi non facciamo. Quindi per loro è passeggero, per noi rischia di essere un problema più grosso. Anche perché sono tornati alla filosofia del ci si fa un mazzo così, o come dice mio amico Sasha Giorgevi, si segue programma di educazione sportiva, esatto, fino in fondo. Esattamente. Noi abbiamo fatto lo stesso, noi abbiamo avuto certamente dei problemi tra una generazione meravigliosa, che era quella di Basile, che ha vinto le medaglie, e questi che sono arrivati però già, noi siamo dell'NBA così, alla fine non si sono fusi. Sono sprofondati a livelli ridicoli. Palla spicchi. Ecco che riannodiamo i feli, sempre con noi Luca Chiabotti, Flavio Suardi naturalmente qui vicino a me, e c'è un ascoltatore che è Pier Giorgio Bologna, che è già in linea da prima della lunga sosta. Pier Giorgio, buongiorno. Salve, buonasera, vi ringrazio per avermi fatto partecipare. Grazie. Volevo porre alla vostra attenzione la considerazione, secondo me corretta, che ha fatto prima Dan Peterson sul numero di stranieri, cioè sul fatto che comunque al di là del... sono americani, ecco, il problema secondo me è fondamentale quello, perché parlo della nostra esperienza a Bologna, sponda Virtus, e abbiamo una squadra zeppa adesso di americani, giocatori bravi, anche di talento e quant'altro, ma si capisce che manca un po' la mentalità giusta per le nostre competizioni, a mio avviso. Manca intensità difensiva, manca quella rabbia giusta, e vanno un po' così, a corrente alternata, le grandi giocate, alternate grandi amnesie che fanno sì che magari butti via partite con l'ultima in classifica perdendo di 20. Ecco, tutto qua. Non so se... E invece i giocatori comunitari, secondo me, come era nel nostro caso nel 98, nell'epoca Danilovic, nel 2001, quando comunque avevi i giocatori, vabbè, come Ginobili, che si è visto cosa è diventato, ma di americani ce n'erano meno, i risultati erano sicuramente migliori. Certo. Non so se condividete questa opinione, comunque niente, ma volevo porre la vostra attenzione. Le faccio rispondere subito da Luca Chiavotti, però insomma è la grande differenza tra la pallacanestro europea e quella americana. Sì, i nomi che ha citato sono di campioni assoluti e quindi lì il passaporto veramente c'entra poco, perché se parliamo di Ginobili, di Danilovic, sì, di questa gente, vabbè, non erano campioni e basta. Certamente, ma è proprio quello il problema. Una delle cose che la gente non dice, anche le società non dicono, è che con quattro americani in squadra, che poi diventano 5-6 con i naturalizzati, comandano loro, ma non perché siano delle cattive persone o non siano dei giocatori, è che comandano loro, sono la maggioranza, e quindi rappresentano nell'ambito di una società quello che la società è, il livello degli allenamenti, come ci si muove, come ci si allena, eccetera eccetera eccetera. Poi ci sono dei casi straordinari ma molto personali, come è stato quello di Cantù, come è stato quello di Siena, come quello oggi di Siena, sì, in cui si ha la fortuna di avere dei giocatori che forse perché hanno capito subito che la loro fortuna era l'Europa e che quindi qui avrebbero potuto costruirsi un futuro, una carriera, una vita. Parlo di Terrell McIntyre, certo, parlo di Sean Stonerook, di questi giocatori qui, che loro potrebbero, anche questi, stiamo parlando di persone che potrebbero essere italiani, cinesi, americani, russe, ma che hanno un orgoglio, una necessità di affermazione, uno spirito che fa una squadra. Perché quando ci si allena con McIntyre, ci si allena con McIntyre, e se quei giocatori, ogni tanto Siena è un po' come l'Unione Sovietica dei tempi d'oro, non trapela niente perché sono bravissimi. Però ogni tanto un giocatore arriva, gioca poco e poi sparisce. E uno dice, sì, perché? Perché ci sono stati, anche loro hanno fatto degli errori ogni tanto, pochi, molto pochi, ma hanno fatto degli errori, nel senso hanno preso dei giocatori che poi sono spariti. Perché? Perché non erano di quel tipo lì. Perché con McIntyre la partita amichevole è una del prima partita amichevole è quella con la finale di, certo, Coppa dei Campioni, e se non stai a quelle regole in quella squadra non giochi. Purtroppo, per fortuna di Siena, perché sono bravi loro a essere riusciti a crearli, a trovarli. Se uno prende uno straniero perché è buono alla Summer League senza conoscerlo, poi viene qui, trova altri quattro americani, non si sa mai, così è chiaro che poi diventa difficile la gestione, e soprattutto fargli capire che magari una partita importante perché è un derby. Chiaro. No, ma poi sono funzionali al gruppo quelli che prendono loro, e devono adattarsi al gruppo. Poi c'è anche da considerare tutta gente, Stonrock, McIntyre, Satu, che ha mangiato il pane duro delle leghe minori, quindi sa cosa vuol dire, sa come si fa, sa come anche sa, qua da noi, perché Satu e McIntyre hanno fatto, certo, la Lega 2 per tanti anni, voglio dire, assolutamente. Ma c'è una cosa che io volevo chiederti, questo su per quanto riguarda gli italiani, perché noi parliamo sempre del fatto che gli italiani, ok, devono giocare, noi non riusciamo a farli giocare, si dice en passant che però devono anche tornare a livelli di mercato accettabili per le società. Secondo me questo è un sacrificio che va chiesto ai nostri giocatori, cioè possiamo dargli del minutaggio, possiamo trovare il modo di farli giocare di più, però anche loro devono rendersi conto di essere in questo momento fuori mercato. Guarda, io sono ovviamente d'accordo, e credo che però da parte dell'associazione giocatori ci sia una reale disponibilità ad aprire questo tipo di discussione, almeno da quello che hanno detto i loro vertici, Cassi, ragazzi che sono stati giocatori, quindi non stiamo parlando di politici ma di persone che hanno fatto questo lavoro. Il problema qual è? Che siccome sono sempre state disattese gli accordi, le speranze, a questo punto questo tipo di trattative, e la speranza che si aveva in Meneghin era proprio quello di riuscire ad avvicinarsi, questo tipo di trattative sembrano quelle fra gli indiani che facevano sempre i trattati di pace e poi dopo sempre disattesi. Quindi è vero, il problema economico non è così grave come lo vogliono dire le società, secondo me, non è così grave. Io ogni tanto mi arrabbio perché dicono che non ci sono italiani competitivi, sicuramente può essere una teoria. Allora dico, va bene, non ci sono italiani competitivi, allora vuol dire che la differenza fra un italiano forte e che paghi tanto, che è strapagato, che è fuori mercato, e un giovane non è così tanta perché non sono competitivi. Benissimo, fai giocare un giovane. Invece di andare a spendere cifre che si ritengono eccessive per giocatori di una certa età, no, prendi un ragazzo, lo fai giocare. Milano ha un giocatore che si chiama Micevic, lui sì, è un ottimo giocatore, secondo me, facciamolo giocare. Qual è il problema se tutti gli altri sono così? E risparmiamo. È un discorso lungo, ma da tutte e due le parti bisogna fare dei passi indietro, sembrano le classiche cose, però sono d'accordo, il prezzo degli italiani è un problema, ed ecco per cui a me le quote non piacciono, perché crea una questione di monopolio. No, è evidente, il problema, tu dicevi, qual è il problema, facciamolo giocare, il problema è che siamo in Italia, ma il solito discorso delle poltrone occupate sempre dagli stessi, del fatto che insomma che Giovinco sta in panchina perché Nedved e Del Piero devono giocare, insomma è applicabile ad ogni settore, io credo, della vita associata del nostro paese, non solo alla pallacanestro. Torniamo agli ascoltatori. Umberto Siena, poi Nicola Taranto. Umberto, buonasera, buongiorno. Buonasera, come preferisce. Buongiorno. Dica. E volevo prima di tutto rassicurare l'amico lì di Bologna. Diverse volte, andando a vedere la Mentana al palazzetto, ci siamo trovati a dire: ma l'allenamento dell'altro ieri era molto più intenso della partita che abbiamo visto. Effettivamente gioca la squadra con un'intensità enorme. E questo è fondamentale, perché i giocatori vogliono arrivare, non sono le stelle che sono venute dall'America, da chissà dove, ma chiaramente vogliono lavorare per diventare stelle, e questo gli dà una forza incredibile. Poi l'altra cosa era sul settore giovanile. Chiaramente, stando a Siena, io ho due figli, giocano a pallacanestro, giocano nella Mentana. E la concorrenza è molto forte, perché la squadra deve vincere. Allora che succede? Non vengono fatti maturare i ragazzi per il loro tempo, ma si perdono per la strada ragazzi che a 10 anni sono ragazzini normali, e a 15, 16, 20 possono essere dei buoni giocatori di pallacanestro. Questo è il problema più grosso. Cioè, o uno è un fenomeno da bambino, cresce da fenomeno, come può essere Gallinari, no? O può essere forse Datome, perché se vedi i genitori di Datome dici: com'è possibile che sono persone normali? Ma se un ragazzo, ne ho visti tanti a Siena, che a 10, 11 anni, 12 hanno smesso perché non erano competitivi per gli obiettivi delle squadre. Ma non so se hanno smesso. Mentana e Virtus. Ma guardi, non so se hanno smesso perché non erano competitivi per gli obiettivi delle squadre, o perché avevano altri interessi, o perché non ci sono anche quelli più che smettono per altri interessi, questo è evidente. Perché però ci sono dei ragazzi che smettono perché non sono competitivi in quel momento. Sì, no, questo può essere anche se insomma, fare i giocatori sul serio è una strada lunga, difficile e complicata, che non ammette tante distrazioni, no Luca? Assolutamente. Però è vero che è chiaro, ci sono dei settori giovanili di vertice che fanno delle scelte, spesso le fanno quando i ragazzi sono ancora abbastanza giovani, però proprio le realtà tipo quelle di Siena hanno tante società interessanti attorno, quindi tutto sommato c'è sempre una possibilità per chi ha delle qualità, secondo me, di rientrare magari dalla finestra e trovare un proprio ambito. Il problema è che quando poi si arriva a una certa età, che sono i 16-17 anni, bisogna diventare grandi, allora a quel punto c'è la famosa strozzatura dei 18-19 anni, e lì i ragazzi si perdono comunque, perché sì, fisiologicamente non giocano, non c'è spazio nelle squadre di vertice, sono troppo teneri per competere con quelli di 3-4 anni di più, e quindi lì sì, è un imbuto brutto e pericoloso. Palla spicchi. Dunque, come promesso, andiamo a Taranto per il prossimo ascoltatore. Poi do anche un'informazione a Laura, che me l'ha chiesto, solo perché sei tu, Laura, che ha chiesto gli accoppiamenti delle coppe di calcio. Lo facciamo volentieri: Villarreal Arsenal, Manchester United Porto, Liverpool Chelsea e Barcellona Bayern Monaco. Ma di questo avremo tempo tutto il weekend per discutere di calcio e altro. Adesso il basket. In UEFA Verder-Udinese. Verder, ci siamo. Verder-Udinese, gli ultimi moicani friulani che rimangono in sala dura, non sarà facile. Nicola, Taranto, buongiorno. Sì, pronto, mi sente? Sì, bene. Sì, allora, innanzitutto complimenti per questa striscia settimanale. Grazie. Davvero ottima. Ascolti, io seguo il basket americano soprattutto. È cominciata l'NCAA questa notte, sì. Simpatizzo per i Wildcats di Villanova per due motivi. Il primo, perché la mia prima partita da ragazzino fu la mitica finale contro Georgetown di un certo Patrick Ewing, che Villanova vinse contro ogni pronostico, sì. E quindi mi rimase impressa quella vittoria, e poi anche perché il mio cognome, quindi due motivi validi. E quindi volevo sapere le possibilità di Villanova anche in un bracket dove c'è il prossimo turno. Adesso non la sento più, però sulle possibilità di Villanova io mi arrendo, confesso. Sì, il college basketball è un po' per adepti. A occhio, per quello che si può capire, diciamo Sweet 16 al massimo. Però succedono tante di quelle cose straordinarie a quel livello, che anche se stanotte grandi sorprese non ce ne sono state, quindi per il momento non ci sono cenerentole che hanno fatto il colpo Villanova. Non è una cenerentola, però diciamo il pronostico dovrebbe portarla magari un paio di sui turni, 16. Ecco, no, non di più. Però invidio molto la quantità di gadgets, magliette di Villanova che avrà il signor Villanova, e quindi farà. Mi parlava di quella partita Georgetown con Patrick. I miei ricordi sull'NCAA vanno un po' più indietro per questioni anagrafiche. Io ricordai Isaiah Thomas con Indiana. Certo. Assolutamente. Landon Turner. Beh, io purtroppo posso anche arrivare a Magic contro Bird. Contro Bird. Per cui insomma lasciamo perdere, però certamente è una, ieri su America, ESPN America, l'ex NASN, sì. È partita questa maratona dove si vedono partite in continuazione, spezzoni di partite in continuazione, e anche se è un basket molto difficile da vedere per chi è abituato a quello dell'NBA, molto molto difficile. Ma anche forse chi è abituato al nostro. Però devo dire che ha un fascino, ha un fascino particolare. Mi permetti, più vicino al nostro che all'NBA, Noi ci stiamo molto con questo accidente di pick and roll, ci stiamo avvicinando molto all'NBA, mentre l'NCAA tante volte fanno, diciamo, come intensità, 30 secondi di nulla in attacco che sono un po' difficili da digerire ormai, però l'intensità di quelle partite a eliminazione è veramente, veramente straordinaria. Andiamo a Chieti adesso. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno. A casa di Mancinelli. Beh, certo, anche se io sono di Vasto, in provincia di Chieti. No, guardi, io sono preoccupato per il basket. Il basket giovanile italiano. Guarda, intanto ho iniziato a giocare a 12 anni e sono ancora qui, sono presidente di una squadra di Serie C regionale, ne ho 53. Sì. Il basket giovanile italiano era una grande quercia. Ma negli anni tutti i regolamenti nuovi hanno dato un colpo d'accetta a questa quercia. Oggi che utilità, che motivo ci sarebbe per continuare a spendere dei soldi, ad investire su un mercato relativo a un impianto di squadre giovanili? Non ne abbiamo grosse possibilità, perché gli svincoli progressivi ci hanno privato di un sogno, che magari ti capitava il ragazzo ogni tanto, certo, che poteva in qualche modo farci rientrare in e però denaro. Però Giancarlo, tornare indietro non si può, quindi bisogna fare i conti anche con l'evoluzione della con l'evoluzione delle normative, perché è inutile stare a dire prima era bello, c'erano i cartellini, magari trovavo il talento, lo vendevo, facevo soldi, magari facevo gli spogliatoi, costruivo, facevo il campo nuovo. Adesso bisogna fare i conti con altre realtà, quindi più che guardare al passato bisogna trovare vie diverse, secondo me, se esistono, ma credo che esistano. Luca, che ne pensi? Ma prima di tutto che bisogna fare un monumento al nostro ascoltatore che è presidente di una squadra minore, e ogni volta che guardo queste realtà mi chiedo veramente la quantità di passione, di soldi, sì, che tante persone che in difficoltà proprio per questo tipo di riferimenti, quindi ringraziamento e statua per questo ascoltatore che ha ancora voglia di fare queste cose. Secondo me si può, anche se abbiamo ragionato al contrario spesso, per sanare dei problemi che sono nati al vertice, nel professionismo, abbiamo fatto cadere a cascata sui settori giovanili appunto delle normative di svincoli prima, di tutte queste cose che evidentemente li hanno messi in grande difficoltà. Più che sull'alchimia di trovare la soluzione, io credo che comunque si sia visto che le società che fanno un ottimo settore giovanile riescono a sopravvivere e a mantenersi. Non soltanto Siena, parliamo di Casal Pusterlengo, che è chiaro, poi gli è nato Gallinari, è un po' diverso magari il concetto, però ci sono dei margini. Certo che dovrebbero essere più protetti, e la parola protezionismo ormai è contro, come dicevi tu, le cose, però stanno creando adesso stanno cercando di creare questa normativa per cui le squadre minori che producono dei giocatori ricevono sempre comunque nel corso della carriera di questo giocatore degli indennizi. Sì. Mi sembra molto molto lunga e difficile, però può essere un'idea. Può essere un'idea, come può essere un'idea anticipare magari a di età la possibilità di fare un contratto non professionista, ma comunque un mini contrattino ai giocatori. Devo aggiungere qualcosa, Flavio? No, io stavo ascoltando e condivido ogni virgola di quello che hai detto tu, Luca, e chiaramente. Però in qualche modo bisogna tornare a fare questo lavoro qui, perché se no andiamo ancora a scontrarci con un buco generazionale, perché dopo la fortuna di avere questi non avremo più gli altri. Ma guarda, assolutamente, però queste sono le cose, e il vostro ascoltatore ne è testimone, che nascono da una componente che è passione, che nascono da una componente che è molto personale, perché se no nessuno farebbe determinate cose. Io credo, io non so, io lo vedo, io la cosa che a 50 e rotti anni mi esalta di più quando vado a vedere una partita è vedere un ragazzo che sboccia, vedere un nuovo giocatore che viene alla luce, italiano, serbo, è una cosa che mi emoziona. Purtroppo o per fortuna credo che questa sia la molla, la vera grande molla, cioè se uno lo fa deve farlo perché quella è la sua passione. Poi è chiaro che ci vogliono i soldi, è sempre più difficile, però con le normative a questo livello è difficile arrivare. Sì. Poi il calcio ce l'ha fatta, perché il calcio, anche se i settori giovanili sono pieni di stranieri, però non importa, sono sempre ragazzi giovani, il calcio ce l'ha fatta, ce la può fare anche la pallacanestro. In questo e in molte altre cose. Luca, grazie, torna a trovarci. Senz'altro. Ti aspettiamo, senza dubbio. Luca Chiabotti, grazie Flavio Suardi. Alla prossima. Alla prossima, venerdì naturalmente, Gigi Borghi in redazione, Giacomo Spunti in regia. Con lo sport ci troviamo domani alle 17, ne abbiamo di cose da raccontarvi domani, tra il finale del Sei Nazioni di Rugby e la Milano-Sanremo. Dunque ci troviamo domani alle 5 del pomeriggio. Buona giornata a tutti.